È costato 13 miliardi e mezzo di roba coreana, che corrisponde a 10 milioni e mezzo, no, sì, 10 milioni e 45, no, 450 mila euro. E ne ha fatti Ne ha tipo 16 fatti, e volte, ne ha fatti, 16 volte tanti più o meno. quindi ha fatto un migliaio di miliardi di robi coreani. Un migliaio di miliardi. Giusto? Aspetta. Perché Non lo so. Sono allora, se... complicati da dare in banconotine nelle buste. Un migliaio di robe coreane. No, no, non un miliardo, 200, 216 miliardi di won. Won coreani. Ma One. stai registrando? Ah, non è Roberta che è entrata, ok. Tempo è entrata di là. Benvenuti. Questo Adesso la sposto. era premeditato, ovviamente, tutto questo. Tutto Aspetta, adesso previsto. esco. No, adesso esco. No, vabbè, stiamo in registrazione ormai. Ma se esci ti si blocca, Craig? Sì, O... no, ma ormai è andato in vacca. Tiriamo dentro Roberto, ormai abbiamo cominciato a registrare, facciamo un po' tutto. Ciao. Stavolta ero pronto. Episodio. Sì, avete sentito le milioni di rupie che monterò prima della sigla, giusto per fare un po' di gag, così Jacopo è contento. Questo è l'episodio numero 45. No. 46. No, è 45. Niente. Vabbè, avete già sentito Jacopo, poi ci sono con me Andrea e tensione, tensione, per la prima volta in quest'anno Roberta. Ciao ragazzi. Roberta Ciao a che tutti. ha sempre questa attivazione microfonica un po' lenta, ma... Dai, Si è dai, è sentito? carino, genera suspense. Sì. C'è quel mezzo secondo di... Va bene, tanto Jacopo mixerà tutta questa puntata col suo nuovo mixer che ha ordinato adesso. Vabbè, non c'entra niente. Allora, visto che noi volevamo registrare la settimana scorsa, ma alla fine non abbiamo registrato, e visto che ci sono state le premiazioni degli Oscar, e visto che noi facciamo le cose che piacciono al pubblico, parliamo di Oscar. Vabbè, e per questa volta abbiamo guardato Parasite, forse non tutti l'hanno guardato, non lo so. E sicuro io l'ho visto, purtroppo, e anche Jacopo. Anch'io. E Roberta, hai visto Parasite? Sì. Sì. Allora l'unico è Andrea, che però è perdonato perché ha guardato il film della prossima settimana, che è più bello. Allora, perché parliamo di Parasite? Lo sapete, perché ha vinto 5.000 Oscar e inaspettatamente, sto facendo le virgolette, ma nessuno l'ha vista. Allora, intanto, vabbè, è un film del No, aspetta 2019. però, cioè, in Cosa? che Ne senso? Perché ha vinto tipo qua, quanti ha vinto? 4 Oscar? ha Ha 24, sì. vinto miglior film, miglior Miglior film, regia. Miglior migliore regia, miglior sceneggiatura film e straniero. originale Film internazionale. e film internazionale, esatto. Ah, ok. Allora, cioè, strano, non... c'erano stati altri film che hanno No, è la vinto... prima volta che un film straniero vince un premio americano. Ah, ok. Cioè, vince un premio come miglior film, il premio come miglior film. E però sono state tante volte che hanno rischiato, tra cui l'anno scorso Roma, credo, Roma di Cuarón ha rischiato di vincere. Poi purtroppo Green Book parlava di neri e di Razzismo. razzismo e quindi ha vinto Green Book, però insomma ha rischiato, forse sarebbe stato più meritato. Di Parasite, vabbè, non c'entra niente. Parasite è un film coreano, sudcoreano, di un regista che è molto famoso a Hollywood, cioè molto famoso, è famosino a Hollywood, che è Bong Joon-ho, probabilmente. Sì, e che appunto è coreano, ed è un film coreano in coreano, e per quello in teoria era più rivolto a miglior film internazionale, ma a quanto pare gli americani quest'anno sono rimasti stupiti da esiste la Corea del Sud e fa un'imitazione di Kim Jong-un e allora diamo gli Oscar. Il cast è più o meno sconosciuto, almeno per chi non mastica film coreani. Lui in realtà di famoso internazionale credo che abbia fatto solo Snowpiercer, famoso anche lui. No, ha fatto anche Mother, mi sa. Sì, bravo. Cioè, non che sia un film da vedere, però... E invece sì, degli altri direi che non esistono, e anche perché credo che di attori coreani famosi ci sia solo tipo forse l'attrice che ha fatto Sense8. Il padre è famoso pure, padre sì, di famiglia. Però basta, finita. E invece è una cazzata perché per esempio a me il cinema coreano piace, vabbè, non c'entrava un cazzo, però soprattutto le serie TV brutte coreane, Stranger, tipo Suits, tipo queste cose qua. Vabbè, non c'entrava niente, era una piccola parentesi mia. E dicevo, ha vinto tutto, ha sbancato tutto, ha vinto appunto 4 Oscar, ed è credo il film che ha vinto più Oscar, no, non è vero. Sì, è il film che ha vinto più Oscar. Ah! E segue il film 1917, che non ho visto, ma che dovrò vedere a sto punto. Non è vero, non lo guarderò mai, mi taglio le palle piuttosto. E poi hanno vinto 2 Oscar, Joker, Le Mans, quello con Matt Damon, e c'era una volta Hollywood, però sono Oscar tecnici quelli di Le Mans, tipo montaggio e montaggio sonoro, ste caccate qua. Ah, ok. E Joker, che tra l'altro era il super favorito, ha vinto solo, relativamente solo, vabbè, ha vinto miglior attore e qualcos'altro. Miglior colonna sonora. Miglior colonna sonora, bravo. Ah, l'islandese, no? Chi era quella? Sì, sì. Danese, boh. Islandese. Islandese, sì. E poi chi altro c'è degno di nota da ricordare che voglio io ricordare? Allora, c'era una volta Hollywood, non ha vinto quasi una sega, tranne appunto Brad Pitt, e non so se è un bene o un male, e vabbè, la miglior scenografia. Volevo dire che il miglior film da Rabbit. Sì, ecco, questo magari stai per dire. Bravo, ecco cosa volevo dire. Volevo dire che grazie a Dio miglior scenografia non ha vinto Jojo Rabbit, perché sarebbe stata una vittoria tecnica per Wes Anderson. Comunque ne parleremo magari settimana prossima. Esatto. No, l'ultima roba che volevo dire sugli Oscar molto velocemente è che il miglior film d'animazione, ovviamente gli americani hanno detto che doveva vincere un americano e quindi non ha vinto. Vergognoso. Vabbè, ci sta. Toy Story 4 che non ho visto, però un Oscar alla Disney potevano anche non darglielo. Comunque, no, Toy Story 4 io l'ho visto e vabbè, cioè sarà uguale agli altri Toy Story, immagino. Sì, è carino, però cazzo, cioè vabbè, niente. E Klaus è molto bello. E per essere un film di Natale. E, allora diciamo Parasite ha vinto un sacco di statuette, ma di fatto è una storia di non so, ditelo voi, non so neanche cosa dire. Disabilità sociale. No, allora assistito sociale, Roberto. Aspetta. Sociale, sì. È una storia sociale, sì. Vabbè, è una storia che potrebbe essere benissimo una commedia nera italiana. E parla di una famiglia molto povera che vive tipo in uno di questi... Suburbia. Quartieri, sì, esatto, in uno di questi quartieri orrendi di coreani. E in un seminterrato, tra l'altro, e vive di disoccupazione e poco altro. E decidono di fare una sorta di truffa cioè non proprio così, ma questa è la versione americana, e decidono di fare una truffa a una famiglia ricca, insomma infiltrandosi e facendo dei lavoretti per la famiglia ricca, fingendosi, comincia il figlio a cui viene l'idea, il figlio fingendosi insegnante d'inglese perché deve sostituire un suo amico come insegnante d'inglese alla figlia adolescente, e poi gli viene questa idea di infiltrare tutto il resto della famiglia come non so come dire, come lavoratori per questa, quindi c'è la domestica, c'è l'autista, c'è l'insegnante di qualcosa al figlio piccolo, ed infiltrarsi nella casa di questa famiglia molto facoltosa. E basta, in realtà non c'è nient'altro da dire, perché poi non succede nient'altro. Cioè no, succede un sacco di roba, però non volevo magari spoilerare e dire cose strane. Però insomma la storia di fatto si basa su l'idea che questa famiglia sia costretta, vista la sua povertà, a fare, diciamo, disonesti e a far licenziare i lavoratori della famiglia e infiltrarsi, i lavoratori della famiglia benestante e infiltrarsi lì, e poi niente, quindi c'è questa sorta di tentativo di avere un lavoro perché per tutta la famiglia alle spalle di altre persone, ma è quasi una roba su cui sono costretti a fare. Ma io in realtà di tutto questo film l'unica cosa che voglio dire è che c'è una canzone di Gianni Morandi in mezzo, esatto, improvvisamente Gianni Morandi. Allora, il film è andato da Dio e ha delle recensioni che non stanno nel cielo in terra, cioè percentuale di pareri positivi del 99%, queste cose qua, 9.4 Metacritic, ma onestamente... Ah. Onestamente viviamo in una... No, 9.6 su Metacritic, 96 su Metacritic. Viviamo in un periodo in cui i film sono ha delle recensioni super positive o è la merda più totale. Ma anche nel mondo dei videogiochi è la stessa cosa, come Jacopo sa bene. Ma quindi è per questo che ti fa schifo, Salla? Perché tutti quanti lo amano? No, allora, il film mi piace nelle sue parti coreane. Perché a me piacciono i film coreani. Poi però ci sono alcune cose che sono un po' occidentali, sembra quasi appunto una roba italiana, cioè sembra quasi una roba tipo uscita da Neri Parenti. Che senso? Fammi un esempio, non ho capito. No, ci sono quelle cose tipo da umorismo, direi becero, ma vabbè, umorismo nero di quelli super bassi e... Potrebbe essere una roba tipo Mamma ho perso l'aereo in alcune parti. Mm. Cioè ci sono quelle cose di comicità, tipo lui che cade o che si nasconde sotto il letto, che sono delle cacate. E... Boh, in realtà quello a me non... Cioè, io non ci ho visto comicità, forse... forse è quello, non lo so. Nel senso, forse non funzionano talmente male che... No, ma ci sono quelle robe tipo, ah, sei davvero brava a fare l'artista... dovresti essere una pittrice mentre gli sta falsificando il documento, hai capito? Ah, ok, ho capito. Sono delle battute che non sono battute, che fanno una sorta di commediola che per l'amor di Dio ci sta, però mi sembra molto appunto una roba un'italianata, una roba un po' così. Poi lo dico con connotazione positiva, forse. No, nel senso non ci vedo niente di speciale, cioè non mi sembra questo film capolavoro che tutti dicono. Poi per l'amor di Dio, l'Academy e gli Oscar vivono un po' di, cioè non è che fanno, non è che premiano il miglior film, si basano molto sul clima politico e economico statunitense. Questa è una roba seria, adesso faccio tutto, se mi dico, sì, popolarità però sì, guardano gli incassi e guardano il periodo storico, cioè il periodo socio-economico degli Stati Uniti, quindi se di solito ci sono, cioè se tra i candidati ci sono dei film socialmente e politicamente impegnati, tendono a vincere. Cioè se in questa lista c'era Joker, Parasite 1917, è ovvio che viene dato la priorità a questi film qua rispetto a Joker, che non ha un cazzo di più da dire di tema sapio, tra virgolette. Dall'altra parte Joker ha fatto un sacco di incassi e ha una popolarità atomica e quindi viene considerato uno dei migliori film per questo motivo qua. Però non è razionale, cioè non è una roba tipo da critica, è una roba un po' a cazzo di cane come l'Academy decide di fare. Sì, sì, no, vabbè. Per me il film d'Oscar, diciamo, più stereotipato è Green Book, perché alla fine è un po' storico, è un po' contro il razzismo, però non è troppo carico, è un po', capito, un pochino superficiale. Sì. Se però anche lì, cioè, se vedi i candidati, c'era Blacklansman, che è un altro film di Spike Lee sugli afroamericani. Però più cazzati. Complicato quello. C'era, esatto, poi c'era Black Panther, che è sempre una roba tra virgolette sociale, ma cacciarona. E la favorita, che onestamente non so perché sia lì, è Roma, che era l'altro favorito, perché appunto è un film fico di Cuarón, impegnato anche quello, e comunque è uno dei lì in mezzo è uno dei film più d'autore, probabilmente. E niente, però ha vinto Green Book perché sono americani di fatto. No, infatti per questo mi stupisce Parasite. Perché... Beh, ma sai, i temi di Parasite sono anche temi americani, non c'è la middle class, ste cagate qua. I poveri sono poveri, i ricchi sono ricchi. Sono ricchi. Ah, tu dici col fatto che è coreano, gli hanno fatta passare... Liscia, cioè, è coreano di regia, però nei temi è molto americano, secondo me. Sì, è molto attuale. Non è coreano nei temi, cioè... Tu dici nel senso di criticare... A me non ha fatto impazzire, in realtà. Cioè, sì, è un buon film, però anch'io, nel senso, non ho letto... non ho visto un parere negativo, ma da nessun tipo di... che è esagerato, perché... Cioè, nel senso... È anche distorsivo non avere mai una critica. Ma non sì, so, mi ha un po' fatto fatela, fatela voi. Non ho mai sentito forse. Ha detto fatela voi. No, nel senso, no, veramente, perché io faccio fatica. Cioè, allora, è vero che... No, prima di guardarlo... a me è piaciuto, però non mi ha lasciato a bocca aperta, ecco, tutto qua. Ah, ok, allora sì. E mi sembra strano, cioè nel senso non è così comune di non trovare in giro così, ma anche, ok, io non è che mi sia passata tutte le recensioni del mondo, chiaramente, però non veramente mai un parere che desse una prima, cioè non mi era mai capitato, probabilmente nei film che ho visto, vedi sempre un commentino che ti mette magari qualcosa un pochino in una luce diversa, qui in effetti c'è stata... C'è un grande giudizio da parte del pubblico che del pubblico ha detto, cioè della critica. Però, ripeto, a me è piaciuto oggettivamente, però non mi ha tolto il fiato, cioè, per dire, per me la favorita ha tolto il fiato. Cioè, mi ha emozionato anche questo, mi è piaciuto, sì, una buona prova artistica, però non mi ha emozionato più di tanto, onestamente, ecco. Anche non questo. C'erano abbastanza lesbiche... che mangiavano torte e schiacciavano conigli. No, la cosa di questo film effettivamente è che, avendolo caricato così tanto la critica e anche la gente tipo sui podcast e così, quando l'ho visto prima ho detto vabbè, cioè bello, però non un capolavoro così. Secondo me però, anche non avendo questa roba dei critici che avete lamentato voi, comunque, ma gli manca qualcosina a questo film, perché a parte un paio di scene... Vedi, sei d'accordo con me, quindi, che non è... Cioè, non è un capolavoro della storia assoluta, esatto, no, cioè, assolutamente. Qualcosa mi sfugge, non riesco neanche io a dirti bene cosa, però... Allora, la premessa narrativa è una roba che secondo me potrebbe essere uscita da un qualsiasi filmetto del cazzo di tipo... Ehi, fingiamoci, spacciamoci per altre persone e freghiamo i soldi a questi. E questa è la premessa narrativa. Il colpo di scena in mezzo è carino, perché è oggettivamente carino, e il finale è imbarazzante. No. Cioè, il finale che hanno tirato per le lunghe, per quella cazzata lì, è imbarazzante. Io non l'ho trovato imbarazzante, l'ho trovato giustamente pessimista. Ma il problema è che è troppo lungo, cioè la scena d'azione, tra virgolette, che c'è, e che c'è a un certo punto, dovrebbe essere più verso il finale, non serve quella fregnaccia sul padre. Ah, ho capito che intendi. Sì. Cioè non serve, andare a fare tutte le conclusioni dei personaggi, non frega un cazzo a nessuno. È già carino così che finisce di merda perché finisce male e basta, cioè senza stare lì a menarsela su cose, le risate, io rido e queste cose qua, cioè è stupido. Però okay, è personale, è soggettivo. No, no, e quindi alla fine, visto che le premesse narrative mi sembrano abbastanza irrilevanti, e che mi sembra dall'inizio, mi sembra la solita robetta, tipo per dire siamo poveri, ma e proviamo a fregare i ricchi. Sì. A me questo non è piaciuto proprio in realtà. Cioè la trama di per sé... Esatto, cioè sembra una premessa narrativa abbastanza scarsa, infantile, non so come dire. Che poi però si evolve bene, perché è interessante come si evolve, e poi di nuovo il finale è una rottura di cazzo. Quindi nel complesso il film non è niente di eccezionale, cioè a me l'unica, la cosa che mi è piaciuta di più questo film è che è coreano, quindi penso che... Quindi l'avete visto in coreano voi? Io l'ho visto in coreano, cioè sottotitolato in inglese. Sì, sottotitolato in inglese anch'io, sì. Ok. Cioè, perché alcune cose mi sono rimaste impresse di questo film, in realtà. Il fatto che fosse effettivamente coreano, in alcuni momenti molto coreano, tipo la tizia che si ferma davanti alla porta e fa la filastrocca per ricordarsi quello che deve in dire. In realtà, scusami, ma cioè, se posso dire la mia da persona che guarda serie TV coreane, non è abbastanza coreano. No, cioè, non abbastanza, però mi ha stupito quanto fosse coreano, avendo visto Snowpiercer, avendo visto... Cioè la cosa più coreana di tutte è quando loro bevono fuori dal bar, dal supermercato, e esatto, gli amici all'inizio. No, e quella però, è l'unica cosa veramente coreana. A livello di situazioni, a parte vabbè, il tizio che piscia per strada, tutta roba che possiamo spoilerare all'inizio, sì, c'è anche roba di... comunicazione fra i personaggi, di modo di fare umorismo, cioè di modo sì, quello sì, che mi è sembrato molto, non so se è proprio coreano, perlomeno cioè non occidentale, mettiamo così, non è molto americanizzato. E anche, cioè, secondo me questo film, al di là della trama, che a una prima lettura effettivamente può sembrare un po' anni 70, un po' vecchio stile, così un po' semplice, secondo me hai letto bene tu che a un certo punto ingrana la marcia e prende delle sfaccettature, delle, secondo me, dei sottotesti che sono quelli il film, cioè sono, è tutto lì il film. Sì, sì, sì, ma è più o meno secondo me da quando anche lui comincia a adorare il padre, perché il padre, al contrario dei figli, è un personaggio, cioè il padre è diverso, il padre non ha aspirazioni future, ma non vuole che gli è orgoglioso, non so come dire. Sì. E quindi è molto diverso dagli altri, e quello è interessante. E da quel momento in poi c'è tutta la storia dopo della tizia, eccetera, e quello è interessante. Però poi sì. Boh. Io trovo interessante in generale il sottotesto di... Vabbè, cerco di dirlo in una maniera non spoilerosa. Nessuno è davvero innocente, sono tutti... parassiti in un senso o nell'altro, sono tutti... Sì, però è una roba abbastanza scontata, così a naso. Che poi ti dice anche... No, perché c'è sempre... No, dico che poi è insito nel titolo in qualche modo, cioè... Sì, certo, certo. Se vuoi il significato più esatto, cioè quel che ti vuol passare viene già dato subito dal titolo, e secondo me non è una scelta. Io non l'apprezzo troppo in generale come scelta, cioè... Che il messaggio... No, secondo me è giusto. A me non piace molto. Ma è una, cioè una cosa mia, nel senso, questo è un parere super soggettivo. Comunque, vabbè, no, non dilunghiamoci su, cioè, questo. Cioè, è come dire nostalgia fa schifo perché si chiama nostalgia. Cioè, mo questo non sono d'accordo. Che, non è una scelta... Beh, sono un po' d'accordo. che è una scelta artistica che non sposo al massimo. Tutto qua. Vabbè, comunque, per me ci sta chiamare un titolo, cioè un film del genere Parasite per lasciare intendere quale significato, anche perché questo è per il nostro ascoltatore Luca Oddis che si sta lamentando da circa un mese che gli artisti non spiegano le loro opere. Parasite è perfetto perché spiega tutto. Cioè, secondo me è pure bello che sia così semplice sotto un certo punto di vista, perché magari tu dici, ah, ma questo film vuole denigrare i poveri, ah, questo film vuole denigrare i ricchi, ah, questo film... Cioè, ogni personaggio alla fine rappresenta, secondo me, una parte del mondo a cui appartiene, specialmente quei personaggi che si vedono dopo, senza dire troppo, dei personaggi che vengono introdotti dopo, e... Non lo so, a me non è dispiaciuto, a me è piaciuto abbastanza, anche il finale sì, un po' lungo, però mi è piaciuto che finisca così, con questo sogno impossibile di rivalsa che non ci sarà mai. Non lo so. Eh sì, è un po' come Ovo Sodo da un certo punto di vista, in realtà. Se solo l'avessi visto. No? E ho trovato più cattivo per sì, tutti e due gli appartamenti. Sì. Cioè, Ovo Sodo è molto dalla parte del proletariato. Questo è un po' più cattivo verso entrambi i mondi, secondo me. Sì, c'è un fil rouge, però sì, è molto più sornione, comunque l'occhio di Ovo Sodo, questo è più... E anche se lì comunque vedi la non possibilità di riscatto in qualche modo, però è tutto più edulcorato, qui è più cattivo. Aspetta, sornione che voleva dire? No, che guardava sornione nel senso che lo guarda con riso, capito, un po'. Cioè, okay. Profondo, ecco. Devi capire che Jacopo non ha accesso alla sua tastiera mentre registra. Esatto, non posso, Dio, potrei usare il telefono effettivamente, però vabbè, chiedo direttamente a Roberto. Edulcorato, penso di sapere cosa vuole dire, ma non lo dirò, perché sennò cioè, dico una cosa sbagliata e poi muoio. Però sì, cioè, questo film, non lo so, non mi ha lasciato scontento di averlo visto, sono contento di averlo visto, mi sono piaciuti gli attori, mi è piaciuta anche la sceneggiatura e anche le luci, il montaggio... Secondo me è fatto bene, non è un granché, non è un capolavoro, ma... Sì, è molto mediocre. Non capisco perché... Cioè no, capisco perché non mi va, non mi sta, mi sta un po' sul culo, non gli Oscar, che vanno benissimo, ma più i pareri generali che dicono che questo film è un film da 9. Il capolavoro dell'anno. Ma è come Paddington 2. Cioè, non è che deve essere il film migliore della storia, deve essere un film che più o meno tutti quanti dicono vale la pena vederlo. Quello è un po' il problema di quei sì, cose. Però il problema è quando vai a mettere una scala oggettiva in un parere soggettivo. E quando lo fai? Sì, esatto. Nel senso che tu gli dai un punteggio 9.9 che però deve anche essere lo stesso punteggio per altri film... Che sono oggettivamente più curati e studiati di questo. È una cosa, è puramente quindi, un esercizio di stile di merda, dare un voto a qualcosa. Chiaro, quindi se vai a vedere film tipo, che cazzo ne so, io vado a vedere gli Oscar vecchi e vedo che non ho visto neanche un film di questi vecchi Oscar. Però, per esempio, prendi un film tipo Joker, che più o meno è piaciuto a tutti... No, ha diviso un po' la critica, forse. Però se vai a vedere Joker su Metacritic, niente, non dico niente. Ah, come tiri acqua al tuo mulino, poi improvvisamente... No, però almeno qua il Metascore, quindi quello che usa entrambi, cioè la critica e il pubblico, è il 59%. Che è una roba più onesta, che può voler dire è piaciuto un sacco al pubblico ma poco alla critica, oppure può voler dire per la critica è il mediocre e per il pubblico è spettacolare, o il contrario. Ma ci sono tanti fattori, tipo The Witcher ha voti bassi perché la maggior parte dei critici per recensirla ha visto solo i primi due episodi, tipo, o i primi cinque, non sì, mi ricordo. Però cazzo, questo ha 96. Sì, sì, sì. Questo qui, non lo so, allora, non voglio difenderlo fino alla morte, però ha degli spunti interessanti, tipo la tizia che dice, ma questi sono ricchi, se lo possono permettere di essere bravi, gentili, non mi ricordo. Ci sono anche delle scene dove magari, che ne so, parlano del fatto di avere un piano, parlano... Quando il tizio guarda la roccia e dice, com'è metaforica. Non lo so, ci sono delle scene, degli spunti, secondo me, che forse vale la pena approfondire, che forse non sono così superficiali come sembrano, ma forse no. Cioè, forse okay, non vale la no, pena. Vabbè, ho visto vicino a chi è questo film su Metacritic, nella classifica. Posso dire che ritiro tutto quello che ho detto. A chi è vicino, Sado? Vicino a chi è? Non lo vuoi sapere. Thor Ragnarok. È subito dopo Ratatouille. Cazzo, è uguale! È lo stesso e sopra, è subito sopra c'è 12 anni schiavo, per farti capire il paragone. Perfetto. Quindi niente, ritiro tutto, hanno ragione, bravissimi, è uno dei più... Basta, non voglio più avere cazzo a che fare. Vabbè, niente. Comunque, lo consiglio a chi piace questa roba un po'. Allora, un po' se non durasse dark. Due ore, lo consiglierei più o meno a tutti. Ah, dura due ore? Sì, infatti l'ho visto metà. Di meno. 120 minuti spaccati. L'ho visto tutti insieme, ovviamente, però dura due ore. No, non mi sono sembrato due ore, sinceramente. Mi sono sembrato tipo un'ora e tre quarti. Vabbè. Andrea, ti abbiamo fatto venire voglia di vederlo? Andrea è morto. Andrea si è perso. Pronto? Sì, ti sentiamo adesso. No, ho detto no. Dai, onesto e sincero. Sì, però siamo due contro uno, vaffanculo, ci credo che non lo vuole guardare. No, secondo me Andrea puoi vederlo, però ecco, io non te lo metterei nelle priorità. Priorità è Giorgio. Ma Giorgio l'ha visto, dopo ne parliamo. Io non l'ho visto, devo vederlo, sono sincero. Vabbè. Allora, niente, se non avete altro da dire, Jacopo, hai qualcosa da aggiungere? In questa puntata no, ma nella prossima sì. Va bene. Ah sì, aspetta, facciamo così, facciamo doppio... Degli Oscar... Intanto. Ah, degli Oscar in generale, volevi dire altro? Io no, cioè voglio dire due robe, ma le dico nel prossimo film, che tanto è tra i candidati. Ok, vabbè, allora rimandiamo gli Oscar dopo. In questa... Allora faccio così, in questo faccio pubblicità e nel prossimo faccio il giochino di merda. Va bene, fai pubblicità così. Oh, Marco, ascolta. Marco, ascolta bene. l'unico a cui non dobbiamo fare pubblicità. Allora, per chi non lo sapesse, abbiamo espanso l'universo... Non è vero. l'universo auditivo di Salla. Abbiamo espanso l'universo podcastivo del Sallotto. Abbiamo un altro podcast dove però la Salla ci ha solamente aiutato a metterlo in piedi. Non ha ancora partecipato, ma speriamo di correggere questa cosa prossimamente. Posto così, grazie. Insieme anche altri ospiti in futuro. Per ora siamo solo io e Marco, che non so se vi ricordate è quello che era con noi per Game of Thrones. Quello col microfono brutto. Quello col microfono di merda. E... ciao Marco, solo che sei l'unico che a cui interessa la sua pubblicità. Si chiama Il Focolare Elettrico, è su iTunes, vari app di podcast, Google Podcast, eccetera. E niente, c'è il logo disegnato da Salla. È molto tecnico. Molto tecnico. Comunque Marco ha fatto anche una puntata che è quella di Fast and Furious, se non sbaglio. Ha fatto anche Fast and Furious, Marco? Ah, può essere, è vero. Forse si sentiva male il microfono, non me lo ricordo bene, però... L'hai rimosso? L'ho rimosso. No, però vabbè... Marco, quando vuoi venire in podcast, sei sempre il benvenuto. Basta non parlare di Wes Anderson. E... Quindi niente, cioè, stiamo migliorando, stiamo cercando di spiegare più roba quando ci viene in mente che magari non tutti sanno che cos'è un tutorial o che cos'è un termine strano. No, è abbastanza chiaro, sono io che sono lamentoso. E vabbè, sta per uscire la seconda puntata, è uscita già la prima e niente, fini del sì, lo trovate nei soliti canali e basta. Quindi anche su Spotify siete, no? Mi sembra di sì, devo controllare però un po' che non controllo. iTunes, Google Podcast, le solite caccate, c'è anche il sito, il focolare elettrico. Vabbè, e niente, non abbiamo detto che l'Oscar onorario è andato a David Lynch. No, va bene, detto questo, noi ci sentiamo settimana prossima per un episodio su un bel film stavolta. E so che Jacopo sta gongolando visto che l'ho detto. E niente, grazie di averci ascoltato e andate a sentire il focolare elettrico. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Tipo perché? Perché? Per la miglior colonna sonora, perché ha vinto Joker. Mi chiedevo. Ah, ok, questo però lo devi chiedere a loro perché io non ho visto. Ah, esatto. Effettivamente la colonna sonora di Joker. Oddio, adesso non mi ricordo. Bah, a me non mi ha lasciato. Ma quali erano gli altri film in candidatura? Boh. Io non posso la tastiera. C'era Storia di un matrimonio, Piccole donne, 1917 e Star Wars. Cazzo, c'era Star Wars, forse Star Wars. Vabbè, Star Wars ha già vinto. Vabbè, che c'entra. Star Wars non ha vinto un cazzo però quest'anno. No, quest'anno no. E poi di che cosa trovi a lamentarti, Andrea, giusto per capire? Niente, solo che non abbiamo parlato... Ma vabbè, dell'Oscar... la prima volta che vince una cazzo di islandese... Ma voi dell'Oscar di Joker cosa ne dite di Joaquin? O di Brad Pitt, miglior attore non protagonista. Esatto, che non ho visto nessuno di quei film. Tu l'hai visto già una volta a Hollywood? Io no, l'hanno visto gli altri due sbirulini. Okay. Boh, sì, bravo, però boh. E lì chi altro c'era? Dove? Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino. Ma Anthony Hopkins e Al Pacino ormai devono smettere di fare film. Quanti anni ha Anthony Hopkins? Oh, 70, 80, non lo so. 70, 80. È del 37. Che puttana! Complimenti. Porco Gio, davvero? Congratulazioni. 31 dicembre del 37. Anthony Hopkins. Che troia. Beh, gran fisico, però. Ok. Gran fisico. E a proposito di Hopkins, esce Westworld adesso. Prossimo mese. Non ci sarà Hopkins, però. Vabbè, niente, Andrea, dici... Perché questo è l'angolo lamentere di Andrea. Ma... Nel fuori onda, Andrea, gli piace fare queste cose qua. Non hai detto nulla su Gioacchino che ha vinto. Boh, non so, pensavo io non posso dire qualcosa. Io lo vorrei dire, hai ragione, però dillo, dillo. Mi rompe il cazzo. Dillo, dillo. Che questi cazzo di attori che fanno finta di essere dementi per vincere il premio, non rotto le palle. Mica mi posso solo io, cazzo. Allora prendo un demente vero, lo metto lì e gli faccio fare il ruolo. Allora a sto punto poteva vincerlo anche, come si chiama quell'altro che ha fatto Joker? Simple Jack. Questa citazione a Tropic Thunder improvvisa così. Tropic Thunder che ci stiamo lasciando per la puntatona su Jack Black, tra l'altro. Sì, anche perché appunto io volevo fare un episodio su Tropic Thunder, ma è invecchiato veramente male. No, è un'illusione, è tutta illusione. No, l'ho rivisto l'altro giorno perché è su Prime, ma fa cadere. No, è un'illusione, Salda, non è vero. No, come si chiama quello di Suicide Squad che ha fatto gioco? Jared Leto. Jared Leto, allora lo davano a Jared Leto l'Oscar, ha fatto il demente e basta. Beh, lì non era demente, lì era proprio stronzo, era proprio... È ritardato, vabbè. Allora prendete solo ritardati e gli date Non lo so, boh. Non posso dire più niente su Joker, anche perché non ho visto il film. C'è, beh. Grato. No, è piaciuta la mia recensione? La nostra? Come? Non è piaciuta la nostra recensione a Salla? La recensione? È la puntata che abbiamo fatto. Ah, abbiamo fatto la... Sì, sì, sì. Sì, ma non mi avete convinto. No, l'unica cosa che ho commentato degli Oscar è quello del miglior film d'animazione, che per amor di Dio ci può stare dal lato story, però ne ha davvero bisogno la Disney? E vincitore di tutti i premi tecnici, cioè non tutti, ma quasi tutti i premi allora, tecnici. Allora, quello mi incuriosisce. Nel caso di guardarlo? Che dici? Quello mi incuriosisce, secondo me potremmo andare a cercarlo. Perché... miglior montaggio, miglior effetto. Però io rischio di fare una puntata troppo sapio e so che il mio pubblico non gli piace. Poi metto a parlare di fotografia, la gente rompe i coglioni. Ma so, beh, è la cosa più bella, quella è la puntata più bella, Salla. Non è tu vero, tutti si sono lamentati. Non so, è difficile. Tirati la meno. Madonna, Salla. Vabbè, niente, dai. Vi saluto anche questa. Grazie per tutto il pesce.